era il tempo dell'inverno ormai e Francesco Perugia lasciò con Leone camminava ed un vento freddo li gelava e Francesco nel silenzio alle spalle di Leone chiamò può essere santa la tua vita sappi che non è la Letizia puoi sanare i ciechi e cacciare i demoni dare vita ai morti e parole ai muti puoi sapere il corso delle stelle sappi che non è